Time Out di Luca Mastrantonio. Ultime pretenziose notizie dal mondo dell'editoria, della politica culturale, della cronaca giudiziaria. Vito Mancuso, scrittore, teologo, docente all'Università di Don Luigi Verzé, consulente editoriale un tempo della Mondadori e prossimamente per Fazi Editori, ha scritto su Repubblica un articolo in cui si chiedeva e chiedeva agli altri amici e colleghi: si può pubblicare per Mondadori dopo una legge che agevola il patteggiamento fiscale della Mondadori? Si può pubblicare con Mondadori e scrivere su Repubblica magari contro Berlusconi? Lui ha aperto questa crisi di coscienza e ha costretto ad una seduta quasi di autocoscienza collettiva Roberto Saviano, Zagrebelsky, Scalfari, i collaboratori di Repubblica. Qualcuno ha preferito restare in silenzio, altri hanno parlato. Quasi nessuno ha aderito a questa sorta di crociata contro Mondadori di lasciare la casa editrice di Segrate, tranne Don Gallo, e allora Scalfari ha chiuso la questione su Repubblica dicendo: io a Mondadori mi trovo benissimo, ma è possibile pubblicare per Mondadori senza sentire di commettere un crimine morale? O Mancuso si è fatto pubblicità, magari adesso che cambia editore, cambia consulenza. E ancora, perché Di Pietro chiede a Saviano di lasciare la Mondadori? E su Facebook che nascono i siti Mondadori No Grazie, che invitano gli autori anche di grande successo come Lucarelli a lasciare la casa editrice, altrimenti verranno boicottati. Benvenuti a Time Out, io sono Luca Mastrantonio e questa mattina, come ogni mattina, su Radio 24 alle 9:30, il sabato e la domenica, fermerò il tempo assieme a voi per cercare di trovare un senso, un filo logico, se è possibile, in un flusso di notizie che ci sommergono, che si confondono. Oggi parleremo del caso Mancuso-Mondadori, di questa annosa questione morale, se pubblicare o meno per Mondadori. Cercheremo di trovare, visto che da un teologo è nata questa questione, una morale. Ma la morale, che noi certo non facciamo, cercheremo di trovarla, quella che forse ad un bambino andrebbe raccontata come una favola. C'era una volta, nel nord Italia, un teologo che lavorava nel bosco di Segrate, dove ha sede la Mondadori di Berlusconi, davanti a un lago pieno di carpe giganti. Un giorno il teologo si punse con un fuso, che lo fece addormentare, cadendo nel lago di Segrate tra le carpe giganti. Il sonno durò più di 10 anni, durante i quali Berlusconi mise a soqquadro il paese, ma il teologo addormentato nel lago di Segrate non poteva saperlo. Dormiva. Poi un giorno l'incantesimo finì. Un altro editore, bello come un principe, ma non azzurro, Elido Fazi, si tuffò nel lago e lo strappò al sonno con un bacio accademico. Gli offrì di lavorare nel suo castello romano e vissero tutti felici e pagati. Ma non tutti si sono addormentati nel bosco o nel laghetto con le carpe di Segrate. Nel 94, con la discesa in campo di Silvio Berlusconi, alcuni scrittori, giovani promettenti, già affermati, ma con un grande futuro ancora davanti da percorrere, hanno comunque deciso di lasciare la Mondadori. E siamo in collegamento con un'autrice che ha fatto questa scelta, Silvia Ballestra. Buongiorno. Buongiorno. Ricordiamo, dopo essere stata scoperta da Tondelli, pubblica un romanzo, La guerra degli Antò, un grande successo, poi trasposto anche sul grande schermo, esce nel 92 per Transeuropa, poi uscirà anche per Mondadori, ma appunto nel 94. Ballestra, le è successo quello che in questi ultimi giorni è successo a Vito Mancuso? Una crisi di coscienza? Beh, sì, i tempi erano un po' diversi, non era ancora successo tutto quello che è successo, insomma, nei 15 anni successivi, però il 94 non è una data qualsiasi, è la data della discesa in campo, è la data in cui appunto il mio editore diventò Presidente del Consiglio e quindi insomma si è posto sin da subito il famoso problema del conflitto di interessi. Ecco, io ho citato anche Sandro Veronesi, ci vuole aiutare a ricordare altri nomi appunto di scrittori che... No, all'epoca veramente proprio nel settore della narrativa, in particolare i Mondadori, siamo stati solo Veronesi ed io. Devo dire che poi nel corso degli anni successivamente poi mi è capitato ovviamente di ripensare Io vedevo che tante persone continuavano a pubblicare, anche diciamo persone più coinvolte in qualche modo, no? Che magari certo. Di giorno facevano la battaglia politica contro Berlusconi e poi non esitavano invece come dire, a pubblicare anche ci potendo scegliere un nome così per chiarire per esempio politici, no? Sì. Tanti politici che avrebbero dovuto appunto forse loro risolvere ci suggerisca un nome interessi. Non lo so, sono parecchi, comunque l'abbiamo letti in questi giorni, cioè magari lei votava D'Alema e poi vedeva che D'Alema pubblicava con Mondadori, la butto lì. Sì, uno, ma... stato l'unico. No, ma per dire, magari lei lo sosteneva politicamente, poi dopo che le ha fatto una scelta lo vede che magari pubblica con Mondadori, dice beh uno di due sbaglia. Ma io pensavo veramente che il conflitto di interessi insomma andasse risolto, ho sempre creduto che andava risolto appunto dalla politica, no? Certo. Però insomma c'erano anche altri settori, visto appunto che Silvio Berlusconi è un po' onnipresente, no? E quindi vabbè è stato un po', io avevo non avevo dei contratti diretti con la Mondadori perché appunto eravamo passati tramite Transeuropa, perché i miei libri erano pubblicati in prima battuta dalla Transeuropa. Nel 91 il compleanno di Liguana, nel 92 la guerra di Yantò, quindi sono due. Però è anche vero che un po' il lancio era stato fatto dalla Mondadori, infatti mi ricordo che avevo fatto tutto il giro delle trasmissioni dell'allora Fininvest, ero stata la prima puntata di Buona Domenica al Costanzo. E quindi lei ha goduto dell'incipiente conflitto di interessi, confessi. Ma l'ho visto in atto, perché io sono arrivata lì nel 91, che è stato proprio l'anno dell'arrivo di Berlusconi. Io ho visto proprio la rete di vendita della Mondadori, che era molto galvanizzata dall'arrivo di Berlusconi, perché arrivavano come dire sollecitazioni, arrivavano energie, arrivavano sostanze nuove, e poi negli anni la Mondadori è cresciuta, erano molto bravi, mi fa molto piacere in questi giorni vedere i riconoscimenti che arrivano per esempio allo staff della Mondadori, agli editor. Ecco, in fondo non sono un po' loro, non sono però un po' loro le vittime, non sono un po' le vittime di questa battaglia un po' ideologica e di simboli. Prendiamo Franchini o anche i redattori, o la Janecek, che è anche un'ottima scrittrice. Non pensa che siano un po' le vittime in fondo di questa battaglia così alta, quasi teologica? Pare che se loro appartengono alla Mondadori hanno venduto l'anima al diavolo. Ma loro non hanno venduto l'anima al diavolo, nel senso che molti di loro c'erano da prima, hanno fatto sempre benissimo il loro lavoro. Ottimo, noi ringraziamo Silvia Ballestra di essere stata con noi a Time Out, grazie. Grazie. Con la mia condanna la nostra democrazia si è trasformata in un regime. Il Caimano, la scena finale del Caimano, il complesso film di Nanni Moretti, che conta tra gli sceneggiatori Francesco Piccolo, che abbiamo in linea. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, Francesco Piccolo, scrittore, oltre che sceneggiatore, per Einaudi ha pubblicato La separazione del maschio, per Feltrinelli, anni addietro, Storie di primogeniti e figli unici, Premio Berto, e soprattutto, a nostro avviso, uno dei pochi intellettuali laici sull'eterno processo a Berlusconi, perché nel processo intellettuale, politico, culturale a Berlusconi, come nella corte d'assise, ci sono gli intellettuali togati, che di professione effettivamente fanno gli anti-berlusconiani, e intellettuali laici che, come Piccolo appunto, può pubblicare con Einaudi e scrivere sull'Unità, dove per esempio ha spiegato con un ampio e ricco di spunti articolo uscito giovedì sull'Unità, racconta le sue ragioni, le ragioni intellettuali, le ragioni personali e anche storiche. La parte più sapida di questo intervento, a mio avviso, è alla fine, quando essenzialmente dice: continuo a sedermi dalla parte del torto perché le sedie della parte del giusto erano tutte occupate. È giusto, si riconosce in questa geopolitica delle sedie, Piccolo? Sì, insomma, trovandomi nella parte del torto, io credo che non è che ci si sta bene, ma è un luogo molto interessante in cui ci si mette in gioco, in cui si sente questa corresponsabilità, che secondo me è una delle cose che mancano al pensare su Berlusconi, sull'Italia di questi anni. Sembra che riguardi gli altri, mentre invece forse stare in mezzo, essere in mezzo ad una contraddizione, dà un senso di responsabilità. Ecco, prima abbiamo ascoltato L'ultima scena del Caimano, ci piacerebbe aiutare a capire per esempio un aspetto importante di questa scena, che è quando Moretti, condannato nel film, scende le scale e dice: adesso sì, c'è un regime. Ecco, ovviamente Moretti interpreta il Presidente del Consiglio, però per noi è anche il volto di Moretti che parla. Questo è apparso enigmatico, ovviamente nell'arte, nella narrazione l'enigma è spesso il segreto, è così, del fascino narrativo, ma può aiutarci a sciogliere almeno un po' di questo enigma? Beh, quando parlavo di responsabilità intendevo proprio questo, la scelta che abbiamo fatto di far interpretare a Nanni Moretti, che rimane per tutti sempre Nanni Moretti, il Presidente del Consiglio, era proprio anche un atto di corresponsabilità, appunto, cioè di dire questa idea del mondo può penetrare dentro tutti. Ovviamente mettendo Nanni Moretti nell'ultima scena sembra veramente che riesca a penetrare fin dentro la persona più coerente, più pulita, proprio in questo senso, no? Nelle certo. sue scelte, eccetera. Ed è una scelta forte e consapevole che abbiamo voluto fare con Nanni proprio per questo. In un articolo del 19 luglio del 2010, sempre sull'Unità, c'era una chiusa sempre di Francesco Piccolo che penso in questi giorni possa essere riutilizzata. Un giorno ho fatto un esperimento, ho detto: oggi salto tutte le pagine di giornale in cui si parla di processi, appelli e ricorsi in Cassazione. È stata un'esperienza molto difficile perché di alcuni quotidiani mi è rimasta da leggere solo la pagina sportiva e nemmeno tutta, immagino, perché è il presidente del Milan. Ma oggi è anche peggio perché c'è anche la teologia, il fisco che si è messa di mezzo. Forse non abbiamo anche esagerato. Guardi, da laico, ecco, ovviamente glielo chiedo. Sì, appunto, da laico ragionare su queste cose diventa sempre più difficile ed è una strada sempre più stretta, perché ogni discorso razionale finisce per essere interpretato come un discorso di condivisione, di addirittura di simpatia. Certo. O connivenza. Sì, o di connivenza, insomma, ed è una cosa pericolosissima ed è ovviamente del tutto da respingere. Però, insomma, venendo da un percorso di sinistra, venendo da una cultura di sinistra che non era affatto una cultura giustizialista e soprattutto appassionata delle condanne, io dico che senza nulla togliere alla sostanza dei fatti che avvengono, che credo, come è sempre stato nella storia della cultura di sinistra, che l'unico interesse che debba avere il cittadino e tutti i cittadini, fino agli intellettuali, fino ai giornalisti, tranne quelli per carità che si occupano specificamente della cosa, deve venire una cultura di adesione o lontananza politica, nel senso che una fine politica basta a chiunque. Dove poi arrivino i processi non ha nessuna importanza, secondo me, per un cittadino qualunque. Il problema è che invece questa cultura si è persa ed è passata a pervadere interamente tutta la sinistra, ed è una cosa che io veramente non riesco a concepire. Poi, insomma, Fini chiaramente di destra, ma anche Travaglio è, per sua stessa ammissione, una persona che non arriva dalla cultura di sinistra, ma è che secondo me bisogna un po' continuare ad assomigliare a come si era prima dell'avvento di Berlusconi. Più complesso lavorare al Caimano su Berlusconi o a Bemus Papam sul Pontefice? Lì c'era una tensione intorno molto forte. Ecco, qui forse c'è meno pressione. Qui c'è stata meno pressione, però ed è anche una storia più allegra in qualche modo, però è anche un argomento più universale. Quindi il Vaticano fa meno pressione dell'anti-berlusconismo? Almeno a noi sì, ma soltanto a noi. Soltanto. Beh, ringraziamo Francesco Piccolo di essere stato con noi a Time Out, grazie. Grazie a voi. Fortunati, la salvazione vi porto! Unitevi a noi! E io vi prometto, salvi lo corpo e l'anima! Sarai mondo se monderai lo mondo! Da ogni male guarirà! Chi in terra santa meco verrà! L'armata Branca Leone, Zenone, cerca di coinvolgere Gasman e gli altri per le crociate. E ci è apparsa un po' una crociata, quella contro la Mondadori, e siamo in linea con l'ispiratore di questa battaglia. Vito Mancuso. Buongiorno. Anche Scalfari su Repubblica le ha risposto dicendo che da quasi un ventennio, sono tanti anni che c'è il conflitto di interessi, non rischia di fare la figura della bella addormentata nel bosco? Ma guardi, innanzitutto io non ho deciso nulla, non ho deciso di rescindere nulla, ho semplicemente sollevato un problema che tutti hanno riconosciuto esistere, e il fatto che esista da 20 anni non significa che smette di esistere oggi. È un problema enorme, si chiama conflitto di interessi, si manifesta in diversi modi, e io l'ho personalmente sollevato con quel conflitto di coscienza di cui ho parlato. Che rapporto c'è tra la teologia, al cui centro, la cui stella polare lei rivendica esserci l'etica, e una questione fiscale rispetto, per esempio, a questioni giudiziarie come quella del processo breve o altri settori dove il conflitto di interessi torna come un fantasma? Ma vede, se io scrivessi libri di altro genere, per esempio saggi di tipo storico, oppure manuali sul mal di schiena, oppure biografie, naturalmente non ci sarebbe nessun problema diretto tra l'oggetto del mio pensare, del mio scrivere, e i problemi fiscali e i problemi, diciamo, etici di cui lei ha parlato. E invece, scrivendo propriamente di etica, di spiritualità, io mi sento chiamato, interpellato in prima persona, proprio a partire dall'oggetto stesso su cui ragiono e che espongo. Del resto, la radicalità delle scelte etiche è parte essenziale del messaggio evangelico, e non porsi in maniera concreta, la più possibile aderente alla realtà, questo problema, come dire, questo sì sarebbe peccare di ingenuità, ecco, questo sì. Chiarissimo. A proposito di dolori ortopedici e di questioni anche teologiche, lei, se non sbaglio, insegna all'Università Vita San Raffaele di Don Vita Luigi. Salute, sì. Vita Salute, così si chiama, esatto. Così si chiama. Di Don Luigi Verzi. Non è bellissimo, secondo me, come titolo dell'università, come nome, ma questo è. Di Don Luigi Verzè, che crede, diciamo, in una vita quasi eterna terrena di Berlusconi, si è laureata la figlia di Berlusconi e le è stata anche offerta una cattedra da Don Verzè, c'è già chi ha parlato, è pronta per la Mondadori. Non crede che anche lì, allora, per coerenza, lei dovrebbe forse mettere in questione questo rapporto con questa istituzione molto vicina al Premier, alla famiglia Berlusconi? Ma no, non penso. Guardi, innanzitutto io col San Raffaele ho un semplice contratto, non sono un professore incardinato, per così dire. Poi, per quanto attiene alle cose che dico, naturalmente anche lì c'è il massimo della libertà, direi che è una cosa diversa, ecco, veramente. Quindi mi sembra che sulla Mondadori lei sia ancora comunque in una fase di riflessione. Tutto c'è anche qui, una notizia. Sì. Prego, c'è una notizia per completezza di informazione di un coinvolgimento, di un'offerta per dirigere una collana di libri di tema religioso per Fazi, andare o meno. Ma anche in una casa editrice. Un mese fa ci fu il lancio di un'agenzia, mi sembra la ANSA, perché la casa editrice, la casa editrice Fazi, diede questa notizia all'ANSA, che la fece girare, appunto, della fondazione di una cosa di libera ricerca spirituale all'interno, appunto, della Fazi, il cui nome è Campo dei Fiori, e che è collana diretta dall'editore Lido Fazi e da me. Ma questo attiene a un lavoro di consulenza che non ha nulla a che fare con il mio lavoro di autore, per il quale invece io ho un contratto in essere con la Mondadori. Il contratto di consulenza che avevo con la Mondadori è stato rescisso circa 2 mesi fa, in totale serenità, stima, come sempre stato con tutti gli amici di Segrate. C'è qualche titolo che ci può, così, in maniera esemplificativa, anticiparci? Ma guardi, diciamo che in un certo senso quello più importante che sarà, non sarà il primo è una sorpresa che vediamo, il secondo sarà la riedizione italiana di un libro bellissimo di Hans Küng, edito peraltro proprio dalla Mondadori nel 1978-79, il cui titolo è Dio esiste. Ci posso allora assicurare, non leggeremo mai delle memorie di una conversione religiosa di Melissa P nella sua collana? Ce lo puoi assicurare? Questo è assolutamente certo. No, sarà una collana seria di riflessioni filosofiche e teologiche serie e al contempo però non seriose. Ok, allora le auguriamo buona fortuna per questa nuova iniziativa e la ringraziamo di essere stato con noi a Time Out. Grazie a Vito Mancuso. Grazie, buongiorno. Sola zona mia chitarra, lascia piangere il mio cuore. Senza casa e senza amore, mi rimane solo tu. In questa settimana di caccia all'autore Mondadori per sapere se dopo l'uscita di Vito Mancuso qualcuno ha cambiato idea, siamo in collegamento con Francesco Bonami. Buongiorno Bonami. Buongiorno. Che è già stato con noi a Time Out per la febbre dei musei, questa volta appunto invece c'è un altro virus. Per la febbre dell'editoria. Questa volta è la febbre dell'editoria. Ricordiamo l'ultimo titolo di Francesco Bonami che di successo è stato Si crede Picasso, un altro titolo è Lo potevo fare anch'io, arte contemporanea. Francesco Bonami è un critico d'arte, un curatore, attualmente ha curato la Biennale d'Arte del Whitney Museum di New York e proprio forse anche dall'America ha guardato con uno sguardo diverso, abbiamo letto sul Riformista, la querelle fiscale della Mondadori. Lei Bonami come si regola e cosa ne pensa di questo? C'è stata la caccia all'autore, Mondadori hanno vari quotidiani, mi hanno telefonato che chiaramente cercavano autori Mondadori raggiungibili nel periodo vacanziero per sentire se avrebbero seguito Mancuso oppure seguito il suggerimento di Mancuso, perché Mancuso, la cosa che mi fa anche abbastanza sorridere è il fatto che non è che Mancuso abbia dichiarato pubblicamente lascio Mondadori, ha fatto quello che si dice ormai che si fa in Italia, si dice sto pensando di, no? Sì, attenzione. Sto pensando di, e quasi per dire anche voi dovreste pensarci, e se tutti ci pensiamo e ci abbiamo un buon manipolo, magari me ne vado, che è abbastanza ridicola questa cosa qui, insomma, intendo dire, se uno prende una decisione la prende e la dichiara, pubblica la propria decisione, non pubblica cosa sta pensando di fare, forse, magari nel caso, e intanto vedere anche quanti lo seguono, no? Si crede Robespierre potrebbe essere il titolo. Si crede Robespierre potrebbe essere il titolo della in America, e questa non è una scusante per i mali nostri, però dico in America il fisco usualmente contratta e negozia patteggiamenti con potenziali evasori fiscali o aziende che abbiano eluso un certo numero di tasse. Perché? Perché il fisco è una partita poker, nel senso che se il fisco sa che una causa legale potrebbe anche risolversi a sfavore, quindi perdere i soldi che invece si hanno con il patteggiamento. Molti dicono che il terzo giudizio poteva essere ancora probabilmente a sfavore del fisco, quindi se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, il fisco si è portato a casa almeno una piccola percentuale dei soldi anziché perderli tutti. Ecco, possiamo vederla da questo punto di vista lì. E in America questo accade con la regolarità. La signora che ha finanziato la campagna di Barack Obama, Penny Pritzker, proprio la settimana scorsa oppure 10 giorni fa, gli sono stati condonati 115 milioni di dollari in cambio di 15 milioni pagati al fisco, e alcuni malignissimi dicono che dietro questo passo indietro del fisco ci sia stata anche, se non la voce, sicuramente il respiro di Obama. Quindi lei abbandona questo gruppo di autoascolto di mondadoriani? Convocato da Mancuso. Mi sembra di svegliarsi adesso, mi sembra un po' infantile. All'improvviso ci svegliamo e scopriamo che Mondadori è un'azienda, una delle aziende che ha qualche legame con il nostro primo ministro. Insomma, mi sembra un po' banale questa improvvisa risveglio morale. Sì, si possono fare atti di coraggio morale e mediatico di questo genere, però bisogna capire anche che questi atti di coraggio di altri potrebbero creare un effetto domino e uno potrebbe trovarsi a dover lasciare tanti altri incarichi che ha, perché sono collegati in un modo o in un altro con lo stesso soggetto. Chiarissimo. Noi ringraziamo Francesco Bonami per essere stato con noi a Time Out. Grazie Bonami. Grazie mille a voi. Il nostro Time Out sta per finire e la morale della favola ci sembra essere chiara. Ognuno è libero di fare una propria analisi di coscienza, ma forse non dovrebbe imporla agli altri. E soprattutto nessuna crociata, perché ci sono i lavoratori, ci sono delle persone dietro quei simboli, come la Mondadori, contro i quali spesso si fanno delle crociate ideologiche. Io sono Luca Mastrantonio, ringrazio Valerio Rocchetti in regia. Vi ricordo che Time Out va in onda il sabato e la domenica mattina alle 9:30 su Radio 24.